ciò che vuoi ed è ciò che fai. Quanta voglia hai, quanta luce viene fuori da quegli occhi tuoi, tu che vivi un sogno, un sogno. Sia sbagliata, viviamo.